pronto? Pronto, pronto! E beh, dai! E beh, chi sei? Massimiliano! Capo già! Uè, la lasci! Non ti stavo riconoscendo la voce, sono quattro baracchinetto con l'87. Ehi, ehi, allora, che si dice? Mi appena sdocciato e non c'ho quel rumoraccio. Dovete essere accendo che senta qualcuno, va? Cappa il rosmetro. Aspetta che passo al grande Massimiliano, che sono qua. Non sento bene. Non ce l'hai quel rumore perché c'ho 22 gradi, io ci agita domani da letto, viene Desi e c'è di nuovo quel rumore. Ehi, ciao Cla. Vabbè, devo fare un'ultima prova che mi sembra che mi sta provocando questo rumoraccio, lo sta provocando il mio vicino, là, ha piazzato un faro. Giudito, è un faretto a LED o è un inverter, devi vedere. Va bene, dai, tutti quanti che facciamo cosa, accendiamo dopo, ciao Dani. Ehi, vecchi, ciao Claudio, buon proseguimento. Adesso già sei tu, Massimiliano, con la modulazione che ho sentito. Ecco. Chi è? Oh, raga, ecco, è 40 anni che non ne ricevo, ma comunque questo qua è una piccola cosa. Ciao a tutti, Vanni, volevo fare una bella... Ciao, di Claudio, ma ormai... Ciao, Vanni, buonasera, ben sentito dopo una marea, là. Ciao Clark, a te, ti saluto, ok, da. Chi è Massimiliano che è entrato? Vannino? Non lo senti tu, Vannino? Sì, te l'ascolto, ma non ho capito chi è, non è nuovo, però non ho capito chi è, non lo ricordo. Vannino! È chiara, questa è, vabbè, sto usando un HF veicolare in macchina, per capirci. Grazie, rimando bene, dai Vanni, buonasera, ben sentito comunque. No, non ho capito, ciao a tutti comunque, buonasera, ma la radio è buona, mi confermate almeno. Ciao Vanni, no, non è buonissima, sempre fuori frequenza addirittura. Però il segnale non è il tuo, sta arrivando 3-4 Vanni. Perché ti ho detto che sono in macchina, sto usando l'HF, capito? Un quadribanda sto usando, non è al massimo in queste... Sicuramente ho troppo il compressore a manetta. Adesso mi viene male a correggerlo perché devo entrare nel menu. Qua sta arrivando bene, qua è 9.5, 9.10. Magari più favorevole a te, Massimiliano. Ah, no, perché siccome in un passaggio mi è arrivato 9.10, ho detto, strano. Vabbè, pensavo che fosse a casa, là. Ok, là. Allora sei in macchina, va bene. Ma vanno di sorso, Ah, il senore, mi sta aspettando, di senore. Di senori. Oh, raga, pastore, di senori. Mi sono spostato un po'. Di senori. Sì, sono in macchina, sto scendendo la strada, poco fa la ricerca dell'ambulanza, adesso sto in cammino. È fuori frequenza. Quadribanda, non è... dove sta parlando? Adesso mi ci sia qualcuno al canale a fianco. Ehi, io sto dicendo. Ciao Marco, è un po' fuori frequenza, glielo detto. Aspetta un attimo, che adesso vi ho corretto la frequenza e non vedo bene il display. Va bene adesso? Sì, è migliorato un po', dai. Non assai, però. Beh, 0,75. No, ti ho detto, c'è il compressore a palla e quindi è dovuto sicuramente a quel problema lì. Perché lo devo far scendere almeno a 60 per chiarire un po' di più, diciamo, dare un po' più di acuto. O forse il mix... questo passaggio era meglio, dai. Avanti, Marco. Ehi, saluto tutti, dai, era per avvertire l'amico che era fuori frequenza, proprio di splatter arrivava a un certo momento. Ciao Massimiliano, ciao Daniele e anche l'altro amico, ciao a tutti, non so che c'è, ho appena acceso. Intanto sono in ascolto che sto per cucinare. Vai Daniele. Ciao Marco Lì, ben sentito. E allora, tutto azionato nella radio di ieri, sì, chiuso e a posto. Un bijou Daniele, un bijou. Guarda, ho fatto orecchiometro e sublime, sia in trasmissione che in ricezione in mando laterale, e in AM lo stesso. Cappa. Già va bene. No, io mi sto sistemando qua un po' di connessioni, di cose su da mamma. Adesso sembra tutto a posto. Dai, io sono tornato poco fa, sono andato avanti e indietro, morto, posso fare commissioni e sono stanco morto. Rimango in ascolto, dai. Prendi Massimiliano. E io che sei stanco morto di stare morto o sei stanco morto di guidare la moto? Va bene, va bene. Avanti Vanni, prova a vedere se arrivi meglio adesso. Beh, adesso sicuramente è un po' meglio, no? Rispetto, l'antenna non è dell'HF, lo stesso è dedicato all'apparato, quindi giusto per capire. Non è il massimo, il 27, quindi accontentatevi così. Devo controllare sicuramente i toni, perché c'è un microfono attualizzato, ma sicuramente non per la M. Però va bene, tutto sommato, è importante ascoltare. Sì, Vani, adesso sta andando alla grande, là. Va bene, la voglia. E beh, adesso magari quella radio è dedicata più per altre frequenze, quindi non deve stare lì a regolare e fare, là. Poi specialmente in macchina lo andava a fare il grosso. Va bene, comunque questo passaggio si è arrivato benissimo. Ecco, ma cosa stavi dicendo? Ciao Vanni, cosa stavi dicendo? Faretto? Cosa? Qua? Ho detto cosa stavi dicendo, Faretto? Mio zio, là, diciamo quello che è più vicino alla strada, per capirci. Ha collegato un faretto, adesso non ci stavo pensando, un 4-5 mesi fa. E quando inizia l'imbrunire lo accende e poi la mattina presto lo spegne, e non vorrei che sia quello. Infatti adesso oggi avanno una giugata di vanno, però domani facciamo questa prova, io lo faccio accendere, vengo qua e vediamo un po'. Non è quello, te l'ho detto l'inverno, perché come vedi oggi bellissima giornata, 20 gradi anche più, e quindi niente condizionatori a caldo, capito? Secondo me può essere anche quello, vedi un po', non lo so, però il più dovrebbe essere quello, se no potrebbe essere anche quel faretto. Vabbè, ciao Manino, buonasera, guardi magnificamente bene, dove sei? Guardi all'ingresso di sotto. Sì, sto usando la carcella, vabbè, outside, dopo 57 in macchina, c'è l'Aperto 120 che ho rimesso in posizione. Vabbè, il segnale non ve lo dico perché devo stare con la testa giù, però comunque arriva a te. Sì, claro, così è. Non vedi bene, 657, 58, 59, insomma già con queste B. La radio, come hai detto tu, non è un granché, ma comunque abbastanza comprensibile, già va bene. Va bene, falla una segnalata a prova, poi vediamo. Riprendi e fai girare. E domani vediamo un po', là. Domani faccio mettere a Daniela un attimino qua, io vado, avviso, lo faccio accendere, se mi solleva il QRM poi vediamo un po' là. Facciamo questa prova, quest'ultima prova, poi dopo devo fare ancora quell'altra là di prova, quella che ti avevo spiegato in macchina per capire. Quella è essenziale, Massimiliano, quella è la prova del 9, dimmi Vanni. Non ho capito niente, non vanno cos'è il microfono? Io conosco la radio e conosco anche il microfono, è uguale a quello che c'ho io in macchina, nella macchina lì di Valt. Tutti uguali, c'ho il microfono con la tastiera di PMF, non è che vanno molto bene, però 27, però già si fa sentire a tutti i diti. Ok, ma sì, come sto andando io di radio? Sto uscendo con 430. Da giudica che cosa? No, ma se non hai detto nulla, vuol dire che andrò, era molto non uso sta radio, ma da tanto, sempre con 140 e con l'altro. Va bene, Daniele. Ecchio. Anche da te stanno bene, sì. E si conferma, tutto a Roggero. 430 e 430, non smentisce mai, no? Va bene, sì Massimo, quella prova in macchina, quella prova è no, quella devi fare, non non te la fa, se non hai la base magnetica la ce l'ho io una per mettere la roba, la mia attrezzatura, però non pensi mai che ce l'hai, no, che il 700 con la base magnetica. Sì, sì, claro, c'ho anche quella, io ho una senza filettatura e una con filettatura, no, per quello già ne ho attrezzatura così, dai. Sì, no, vabbè, io ce l'ho comunque, se dovesse servire, in macchina, il cofano della macchina mia, dell'Alfa. Va bene, quella è da fare, la prova e così sei convinto, però intanto se hai questo dubbio di quel faretto controlla, perché se non è quel faretto è qualche inverter, perché stanno tornando i conti, vedi, quando sei molto, c'è caldo, la giornata è calda, non lo senti, quando la giornata è fredda invece lo senti, già da quest'ora, però oggi il riscaldamento si accende tardi, e allora di cena, se si accende pure, io non so se ne accendo perché c'ho 20 gradi dentro, quindi si sta benissimo. Va bene, e tu Daniele, ancora malato, sì? Capo di rosmetro, ma è per un'altra settimana adesso. Vabbè, ti hanno contagiato, cazzo, tutti i malati che ci sono in quel gruppo tuo ti hanno contagiato. Ti metto la portante. Ecco. Avete capito che io sono il meglio, il più forte di Sassari. Dici bene che sei più forte, ti arrivano a fare uno scarico. Brecco. Ah sì, lì, perché tu vuoi far entrare, mi sembra registrato un break. Sì, no, ti devo lavorare, sono io, ciao a tutti. Devo uscire, ciao. Stiamo cucinando, avanti il break. Ciao da Giovanni, testo pettine. Stasera tutte belle radio e tutte con bel segnale. Cambio. Ciao Giovanni, io forse boh, è la prima volta che ti sento. Vabbè, se Giovanni la porta Roma, ma tu te ne vai al tuo cazzo la scala. Allora mi faccio la smita, devo che fate i sassari. Ciao Giovanni, hai sentito? Ehi, appena, non te l'ha passato quel dolore, no, ce l'ho sempre. E poi ho fatto le RX e non risulta nulla. Se finisci da lui, lascia perdere. Facciamo terapia io e mi ammazzendo, mi ha fraccati la gina dell'osso. Mi sta ammazzando. Quando faccio quella cosa lì non mi muovo a casa. Ma poi c'avevo un capogiro, una debole, un casino. No, era Antonio che lo fa. Hai detto più forte di tutti, devo bere, 9.40 ci arrivi di notte, la mattina di nevraria, ti prendi i massimi. No, io che arrivo di Braghetta invece. Ma la via Milano, capo qua arriva, quando lo bello quadrato, forse devo più forte, non so guardare bene lo Smith, arriva un bel forte qua. Ah, io riprendo, il mio fosse di Sassari. No, ha detto sulla modulazione che stavo uscendo a fare un intervento. Già rientrerò qua, ma se ne vai a tu io. Ah, ok, no. Vanino, a te il mic. Vanino, c'è penso, Giovanni, avanti. No, dai, stasera avete tutti un bel segnale qua, eh. Io non lo so come sto uscendo, ma voi uscite bene sia di segnale e di radio. Allora io forse è la prima volta che ci ascoltiamo, tu da me qua sei Santiago 8 Radio 5. Prova. Guarda, mi sono accorto proprio ora che stavo modulando col mic girato. Vabbè, è sempre uguale il segnale alla radio. Va bene, ok. Antonio, ti ho sentito, mi. Cosa vuol dire il mic girato? Cosa significa? Rinverso il bigliato? Il microfono rinverso, va via. Ecco, ma se fai il leoncino mi pari, cazzo. Fammi dare con il microfono rinverso che bruciavo. Sì, su, cazzo. Avanti, Sparviero. Vabbè, quello può capitare. Infatti non è uso il microfono a parma, non sa mai un bigliato in verso blu io. Ci arrivi bene, Giovanni, Santiago 9, Radio 5, sei qua, quasi 9, Radio 5, va benissimo, alla grande, avanti, no, Vanino che sei già arrivato a casa perché l'hai già assorso, avanti Daniele. Cala, no, ma come sta arrivando bene, niente da dire. Ma c'è un altro che voleva entrare, non ho capito chi era, boh? Ah, boh, io non ho sentito nessuno. Ottima radio qua, Madonna chiara, mi ci facendo tutti gli occhi. 430, il vecchio, quello che conosci tu, non il secondo, il vecchio, MC60, Mickey Gain, faccia di sceriffo. Già va bene. Era tanto nuovo, intanto l'accendo, lo lascio in 40 metri. Adesso visto c'era questo, stavo ascoltando il 40, ho commutato, ho messo la 27. Così lo facciamo andare un po'. Per forza lo devi far andare. Ah, ma se io schiaccio, tu mi capisci, il segnale me lo pedale. 8. Dai, c'è buono allora, va bene. Sì. Dove sei tu, dove sono io? Da Rubio. Arrivano per vero. Buono allora, va bene. Era giusto per capire. Allora, te l'ho già detto, l'ultimo segnale da lì. Dove sono io, l'ultimo? Fossi stato nella vecchia casa, se sei arrivato a fondo scalo. Ehi, a me, Claudia, è messa lì così buttata, giusto per ascolto, là. Ok, avanti, Radio Spillo. Là facciamo i motori, propaganda permettendo. Allora, poco fa stavo ascoltando lì nel canale 41, in banda laterale, tu vedi i neghisti brasiliani che erano amici di aria. Santiago 9 stava arrivando. Ogni tanto qualcuno arriva. Se sono spagnoli, meglio male, qualcosa riesce a capire, ma non sono... Il vostro volto si comprende nulla, un casino, Sì, vabbè, tu fa vedere di Sassaregi, andiamo per qua adesso. Così è, avanti, Giovanni. Conviene far vedere in Sassaregi, devi comprendere. Cappa, in che zona sei di Platamona, giusto per capire, non dirmi proprio il punto. A terzo pettine, maneggio Murgia, dai. No, non c'è niente da nascondere. Vabbè, allora c'è buono, va bene. Ma sì, quel villaggio, Giovanni. Al villaggio sono, sì. Ma lì dal maneggio, però, mio. Già ho capito. Facevo tutti i giorni con la strada per andare a Sosso. Rientrano la cazzassata. Già ho capito dove sia, è benissimo. Ma l'antenna qual è? Quella che sta piazza Luca? Sì, positivo. Tieni presente che è 5 metri dal piano stradale, non è che sia poi così in alto. Va bene, però si è migliorato tantissimo. 6-8 con picchi positivi a 9. Prima ti ascoltavo terra, andava bene. E adesso muore quelle antenne che fa, funzionano bene. Vai, Daniele. Ciao, aspetta i secondi che mi assento, fermo subito. Dicevo, Giovanni, possibilità di sollevarla ancora un pochino, ce l'hai oppure così sei il massimo? No, la voglio sollevare, c'ho ancora altri 2 metri di tubo, la voglio sollevare ancora. Ma giuravito, una canna da pesca? Una GPE 5 ottavi. Ah, buona, va bene. Se ce l'hai così 5 metri da terra, poi in mezzo alla foresta lì, sei arrivato alla grande. No, è tutto quanto aperto. Tieni presente che sono liscio io però, non c'ho niente di attaccato, io non c'ho niente. Neanche io c'ho niente attaccato. Io c'ho un Turner più 3 con un Galaxy Saturn Echo. Vabbè, sarà bella anche la radio. Questo è la mia stazione. Arrivi bene. Comunque stasera tutti quanti, anche quel Vanino, quel ragazzo che scendeva a Sorso, lo sentivo benissimo. Ok, va bene, tu Claudia sei 9:10 in radio a Bomboletto. Allora io sono esattamente con 20 watt di portante, 35 quasi 40 modulati, però il PTT ha 20 watt, l'ho letto con 230, è così, è buono. Non lo tiro molto perché questa vecchiotta è da recente, però già va, perché qui siamo a 50 watt. Ma non c'è bisogno, claro, così sì, 9:10 pieno a picchi di 15, va bene. Io sono con i vatti tutti chiusi, e questa con i vatti tutti chiusi da 2 vatti di portante, e il picchio è di 30. Va bene. Aspetta, lo metto com'era. Ecco qua. Va bene. No, ottimo. Adesso ce l'ho Gacci, ce l'ho scollegato. Devo prendermi perché c'ho il contatto dell'antenna a 3, e quindi uso le 3 F praticamente che ho. Adesso devo prendermi una 4 Sanchez. KK, vediamo Daniele, è entrato? No, vai tu Giovanni. Ti stavo ascoltando, io come commutatore ce l'ho a 4. Ce l'ho a 4 e mi trovo bene, dai. Tre baracchini attaccati, c'è ancora un posto libero. Ma cos'è il ZG quello? Sì, positivo. No, non posso mettere il ZG. Mi piace il radio HF, sono arrivato, hai capito, io devo usare i commutatori buoni, quello va bene per le reggi 58, per i baracchini, queste cose così. Io devo usare i commutatori buoni, se quello è ZG può fare danno, hai capito? Tutto qua. Per il baracchino, se ti va bene, non c'è problema. Vabbè Massimi. Sì, vabbè, anche per il baracchino comunque classe, li usi buoni è meglio. Io ho i Daiwa e vanno bene, capito? Però sono a due uscite, non ce l'ho a 4. Sai chi ce l'ha buono a 4? Quello di Porto Torres. Per capirci che sale tutte le domeniche a San Giovanni. Ho capito, ho capito. No, eia, mi sa che lo chiamo. Ci siamo sentiti da poco. Sì, ho fatto lo stesso lavoro, per capirci. Ho fatto lo stesso lavoro. Vabbè, non ti dico dove qua. Ce l'ha, perché quello che gli avevo venduto era lo strumento, ti ricordi? Sì, claro, stiamo parlando della stessa persona, so tutto, dove lavora, tutto, lo so perché mi ha fatto un paio di videochiamate, e lo dovevo prendere io, invece poi non l'ho preso, la verità si dica. Ce l'ha dentro la scatola mia, dentro la scatola, a 4 vie, e quello è buono. Quanto sei buono? Io non l'avevo preso perché a Carmati non mi serviva, capito? Non mi serviva perché c'avevo quello della Meritron. Però quello mi serve. Sì, hai fatto bene a dirmi, lo chiamo e glielo dico, se me lo vende, scendo me lo prendo. Così tolgo questo a 3, anche io no, io ho quello della Comet. Buono, poi c'è quello da Daiwa, ma è la stessa casa costruttrice di antenne, sono buoni, fa buone corse. Ok, avanti Giovanni, dammi un secondo, mi stanno chiamando. Vai pure. Comunque migliora le prestazioni questo commutatore, state dicendo voi? No, allora, il commutatore non è che migliora la prestazione. Ecco, quando tu magari metti un commutatore buono, nel senso che c'hai una, due, tre radio, quando tu passi da una radio all'altra ti chiude completamente la linea da un baracchino all'altro, per capirci, capito? E ti fa passare proprio la linea giusta perché è al relay, capito, dentro e sono migliori. Questo della ZG io ne ho avuto un paio, ce li ho buttati, non è che sono molto buoni. Questo è molto vecchio, mi è stato regalato, però non mi dispiace, dai. Ma vabbè, se funziona bene va bene. L'importante è che quando tu passi da una radio all'altra ti chiuda bene l'antenna, ecco, questo bisogna vedere un po'. Sì, chiude bene, lo faccio manuale, forse sicuramente quello che stai dicendo tu lo farai in automatico, non lo so, qui lo devo fare manuale. No, non è che lo devi fare in automatico, non chiude in automatico, metti la mano e giri sull'antenna che ti serve, capito? Però cioè, io se passo da una radio all'altra, che ce li ho tutte e due accese, e ce li ho nello stesso canale, voglio usare una radio al posto dell'altra, e la lascio accesa l'altra, io come giro, cioè l'ago non si sposta di una virgola, capito? Completamente chiude il passaggio dell'antenna, ma lo passa da una radio all'altra, ecco, questo ti volevo dire. Ho capito. Dunque c'è avrà una strumentazione questa roba qua, se ti stai parlando di ago. No, allora, io sto parlando del commutatore di antenna, io ho quello della Daiwa, ok? Io calata di antenna, entro a input del Daiwa, del commutatore, e poi da lì c'ho due radio collegate, no? Se io però, per farti capire, adesso sto usando questa radio, voglio passare con un'altra radio e questa la voglio lasciare accesa, per farti capire, sullo stesso canale, cioè l'antenna non passa sulla radio che ho chiuso, hai capito cosa ti voglio dire? Sì, è stato chiaro, perfettamente. No, io invece devo aspettare, anzi la spengo se mi trovo nella stessa situazione. Quando sono commutatori un po' così, anche perché poi vabbè, il commutatore deve tenere anche un po' di watt, se usi lineari, eccetera eccetera, là. Diciamo che per la 27 queste della Daiwa vanno molto molto bene. Oh, Massimiliano, se c'è un commutatore in più fammi sapere. Pagarlo, vai. Sì, claro, cosa senti? Ogni tanto c'ho la calopsita. Allora è una specie di coccolita, rimane due volte più grande della coccolita, dietro la testa c'ha una cresta tipo lupupa. Tipo cacatua. Bravissimo, bravissimo. Io si era abbigliato mia figlia che ci aveva 25 giorni, Daniela le dava da mangiare con la seria, dove va, rimetta da mano, ma un rompimento di balle. Sta sempre lì. Ma sai perché sta così? Perché in poche parole, quando arrivo io lo metto in gabbia e lo chiudo. Invece sono durante il giorno, sta tutto il giorno aperto, capito? E sicuramente quando salgo lui mi segue, camera da letto, in bagno, e quindi sta sempre rompendo le balle. Allora quando arrivo lo prendo e lo chiudo in gabbia, è per quello che si crea. Ma che vuoi scimmia, vedete? Achille. E tu, questo parla, mica, ti fai la canzone dei candelieri, ti fai. Forte. Tovo, ogni tanto le metto qualche canzoncina, vuoi dire, se ti riesci. Stavo ascoltando, a me mi piacciono, cazzo, io allevo i canarini, e proprio oggi sono nati piccoli. Ci sono, Molto, e anche un amico allevava canarini, navia con 3-400, e poi ci ha venduto tutto. Ma qua Sassari o dove? In zona di Sassari, là, diciamo. A Sassari, là. Campagna. Ma io sono diversi anni, bene o male, qualche allevatore lo conosco, ma di questo molti anni, molto tempo ha venduto tutto. Forse un paio d'anni. Zona luci gialle, là. No, non lo conosco, non lo conosco. Ne conosco uno bravo di Porto Torres, ma bravo davvero, questo è lo stesso. Chi sono io, un bel. Riprendo il secondo che mi allontano al volo col PH piccolo. Ecchi, io ci sono sempre qua. Papà, ci sei? Ma sì, io sto aspettando 5 minuti di nuovo. Cosa, Daniele? Sto aspettando 5 minuti che c'ho anche gente a casa. Ok, fai tranquillo, fai. Ascolta Giovanni, voglio fare una prova con te, se mi ascolti, voglio attaccare un dipolo. Provalo, sono qua, provalo. Se ti cale lo metti orizzontale. No, orizzontale. Provalo. Io volevo lasciare anche un'altra gente. Ci sentiamo, ciao Massimiliano, ciao Giovanni, ciao a tutti quelli che sono ascolta. Aspetta che mi serve un secondino solo, 2 secondi solo, che mi devi dare un controllo in orizzontale per se arrivo da te. Guarda, classe, arrivo. 7-7. Ok, va. Invece da te arrivo. Dov'è? A me ne arrivi anche di più. Perché con la coda prendo quella zona tua. Santiago 9 a me ne arrivi. Se funziona bene su coso, ecco via. Grande, 7-7 da 10 arrivi. Cappa, va bene, quindi ho fatto un buon lavoro anche qua. Là. L'ultima, la grande. Beh, grazie, arrivo a Valerino. Ci sentiamo, non ci vediamo, se ci siete c'è dietro, per il momento dovremmo star bene, se no è brutto. Ciao. Ciao, Clara, grazie del controllo e ci sentiamo là. Avanti, Giovanni. Ciao Claudio, buona serata, dai, lasciamo qua se vuoi rientrare. Quindi con questo arrivo meglio, così mi stavi dicendo. Ma io arrivi meglio, cazzo, arrivavi forte, un bel segnale, no? Perché avevi di segnale e anche di radio. Vabbè, diciamo che questa è un'altra radio, eh? Sì, la radio è un po' più... più tenua, però cazzo il segnale è bello forte. Perché c'ho la coda che è girata verso la tua zona di dietro, invece quella davanti è verso Sassari. Io l'ho tenuto un po' il dipolo, l'avrò tenuto un paio di mesi buoni, l'avrò tenuto, però non c'avevo radio, capito, e non c'avevo niente anche per aiutare la radio. Però mi facevo sentire, dai. È positivo, eh. Guarda, c'hai con questo, con questa radio c'hai lo stesso segnale che anche con l'altra, eh. Qui arrivi 8 e nell'altra arrivi 8. Solo che questa qua di radio c'ha un pochino più di watt dall'altra, capito? Sicuramente il segnale è più forte per questo motivo. Sì, questo è un CTR, un Superstar 6009. L'altro è un Midland, ma se l'attacco magari mi senti, però sarà a basso di radio. Questo è un Magnum S9 con un CTR lo stesso. È già una bella radio anche quella. Ok, volevo fare giusto questa prova, ripasso con l'altro che c'è un microfono da tavolo, va più bene. Va bene. Ok, siamo qua. Più bella, più bellina di radio, però anche l'altra si sentiva bene, si capiva bene, non è che faceva distorsioni o era difficile capirci. Vabbè, diciamo che questa la uso per altre cose, dai. Sì, tu vai anche in altre bande, vai, no? No, vabbè, io questa c'ha l'eco, effetto ricottero, tutte queste cosettine qua, dai, un po' preparato. L'hai presa così o l'hai fatto tu questi lavori? No, no, l'ho mandata a fare da amici. Qua in Sardegna o fuori in continente? Allora, ne ho due. Allora, una è fatta in Sicilia, una è fatta in Sardegna e l'altra è fatta a Napoli. La Giulia sono bravi, la lezione, sia Sicilia che Napoli sono bravi. Vabbè, devi conoscere le persone giuste, però se no ce ne sono tanti bravi, ma quelli che vanno di più sono i soliti. Con qualcuno c'ho l'amicizia sul sito, capito, sui gruppi, sui vari gruppi di Facebook. Ah, ok, va bene. Va bene, va bene, ok. Daniele, ti sei assentato o ci sei ancora? Allora, stavo guardando un messaggio, mi ha mandato un amico. Tranquillo, vai. Questa che radio hai tu, Giovanni? Che radio è questa che ho io adesso? Che radio stai usando? È un CTR Superstar 6009. Ah, un 6009, ok. Va bene, sì, E invece il microfono è suo originale, giusto? No, è un microfono autocostruito, tutto quanto ingessato, però è amplificato ed esce meglio di quello originale. Ok. Se ne mettevi uno da tavola. Mi sto organizzando pian pianino, dai. Ma sotto detto sono all'inizio, poi la stagione non è che sia tanto bella, poi come avrai visto anche tu più di una volta, accendi e non c'è nessuno, insomma. Però siccome adesso iniziamo il bel tempo, quindi se ti sposti c'è un po' di propagazione, adesso ti diverti un po' di più, dai. Sì, ma già mi sto organizzando pian pianino. Va bene. Un microfono da tavola mi sarebbe piaciuto, così magari questo che c'ho adesso lo mettevo su un'altra radio. Lì ci puoi mettere un Turner, un MB più 4, un MB più 5, un Sadelta, sono bene. Non li conosco, dai. Questo me l'ha regalato California. Ok, va bene. Ma quello è Palmare però. Sì, è un Palmare. Fatti un regalo a un microfono intergliziale a Franco. No, me l'aveva dato Bovarino, nonna. E gli avete o mie, non ti bisà? No, puoi dire, mi ha fatto un bel regalo. C'è un Herbert qua, suo, ma è detto, tratta di ragazzo, come fa lui là, fa lo travagliare, dice, io una giumbe. Un Elbex, ma che Elbex è però? È un 2020, roba vecchia, anch'io poi ne ho dato un altro, ma che si dice, ma è duro rimbalzo, se lo mette nel camper e via. No, già lo so, c'è di buon cuore, là, Franco già in gamba. questo che ho me l'ha regalato mio fratello. Cosa, scusa, che va? Questo che ho qua me l'ha regalato mio fratello, un giorno è venuto a trovarmi e mi ha detto, siccome mia moglie gli ha detto che stavo sempre al baracchino, no? Allora lui dopo un po' mi ha fatto, fammi vedere questi baracchini. Io l'ho fatto vedere, mi ha fatto, ma non te ne vado con niente, da dove tu sai che cosa vesce, ma ricollegi lui a Rusani, ha pigliato e mi ha regalato Wish. Vabbè, anche quello è un vintage però, eh. No, questo è nuovo, nuovo, eh. Ah, ma tu stai dicendo il 2009, ah, no, no, no, stavo pensando all'Airbex adesso. L'Airbex è proprio vecchio, vecchio, ben tenuto, è nuovo, nuovo, fa la sua bella figura, ma è roba vecchia. No, è roba vecchia, chi ci sono i migliori, mi all'usare. 40 canali, non c'ha neanche l'FM, e poi non te ne fa niente. Ehi, vabbè, non te ne fa niente, a volte già va bene, a volte passi in FM, ma magari una stazione base, così mi un Saturn Echo va bene, se bande e tutto, attacco 220, perfetto. E ogni tanto già la attacco anche a lui, ma dimmi una cosa, questo parla e ascolta, cioè un pulsante parla e ascolta, ma come devo fare per cosa, che funzioni ha, diciamo, dai? Quello più in poche parole, poi inserisci le cuffie, tiri su il parla ascolta, tu parli al microfono e ti ascolti nelle cuffie. Ah, tutto da solo, cazzo, io ho convinto che schiacciavo e non dovevo fare altro, ascoltavo e forse potevo anche parlare, ma fanculo. No, quello è parla ascolta, te lo dice la parola stessa, no? Parli e ti ascolti, no? Ho capito. Quello magari è se stai facendo qualcosa sulla radio per vedere se stai uscendo bene, ti inserisci le cuffiette, inserisci il parla ascolta, tu parli dal microfono e ti ascolti nelle cuffie. Sì, cazzo, ma c'è un po' che impara ancora, oi. E nessuno è andato a imparare, non ti preoccupare. Sì, è vero. Sempre si impara su queste cose, si impara sempre. Tu a faccia ti trovi, no? E periferia. E un altro sulla vettura. Allora proviamo se ci arrivo. No, vai, non ti preoccupare, adesso qua. Tanto ce l'ho qua a 4 metri, porta già. Vai, prova. Vabbè, Massimo! Oi, Carifo! Cazzo, vi ascolti, campagna, sono, faccio vedere. Se ti ho risposto vuol dire che ti ascolto. Mi sono con Giovanni che sta provando adesso con la radio dalla macchina a vedere se lo sento. Sempre problemi, tu Giovanni, è una cosa incredibile. E lì mi ho finito di tagliare un bel po' di erba, ma mi sono confermato, poi basta paura. Infatti, già ve lo puoi regalare un microfono a tavolo, sì, mi ha detto che gli ha regalato un microfono, non fa niente. Allora, è tirato tu, ho preso tutto il cazzo che ho fatto io, adesso è benissimo con il microfono. Cosa non farà niente? Ma sei sempre tu, Candy. Io sto scendo con l'amplificatore, se no non mi scendo, faccio vedere, capito? Ehi, aspetta un secondo che c'è Giovanni che sta a provare. Prova, Giovanni! Allora, ti ascolto con la radio un po' bassa, anche il segnale è un Santiago 4, però la radio è un po' bassina, C'è quest'eco in mezzo. E comunque ti ascolto, mi è entrato California. Senti, ma io a lui troppo basso, sono in un cross io, Massimiliano. Cosa vai tu, l'Apple Cross? Ho detto che io sono in una buca, un bel basso per lui, non so se mi sei. Ci ho compreso che io ero con l'Apple Pop e l'Apple Cross. Sentito la Giovanna, a Franco? No, stacca con l'amplificatore che non si comprende nulla. C'è Santiago di sì, ma la radio è pessima, non si capisce cosa stai dicendo. E non credo che l'amplificatore con quella la 48 che da 24, non va bene, gliel'ho detto l'altro giorno. Ascolta Giovanni, quel l'amplificatore non va bene su quella radio, c'ha troppi watt e sì, completamente incomprensibile. Ecco, magari quell'amplificatore te lo puoi collegare alla radio che c'hai quel 2009, allora lì va bene, ma in quello della macchina non va bene. Eh, arricchisci con le calecca, ho capito. Avanti, fra. Ma io glielo ho detto, io questo vecchio in macchina da 3 watt, ma ci vediamo, capito? E lo posso pilotare, pure se io ci metto il 48 qua, non va bene. No, ma perché non va bene, fra? Ma perché c'ha, non c'ha i watt regolabili, giusto? Esatto, io qua gli ho abbassato i watt a questo, l'ho portato a 3 watt. Se io questo lo metto di watt, di nuovo come me, da 10 watt, è un casino, si mangia la radio. E beh, quel 48 non glieli puoi abbassare a quello che ha dato Giovanni il watt. Tanto è inutile avere 20 watt e non c'è radio. Anche usando solo il baracchino, da solo, senza amplificatore, non c'è radio, cazzo, perché forse c'ha troppi watt. E infatti, se non voleva aprire l'LC, ma hai detto che c'è un telefono così, cosa no, l'LC no, devi abbassare i watt, cos'è l'LC? Certo si possono abbassare. Si può portare anche a 3 watt quella farina. E no, perché non glielo porti a 3 watt, e così può usare l'amplificatore, così esce bene. E vabbè, se lo vuole fare gliela passa, non mi costa niente a passare. Passa qui, mira, ti la mazzetta lo scalpello. Faccio un paio di sacrificamento e la faccio. Ma io sto usando un Midland che mi hanno regalato, me l'ha regalato la verità Marino. È uno di quei Midland che non vale, ma pure FM, c'ha 40 canali. È un apparecchio piccolino e lo sto tirottando con quella fusta nera là. È un amplificatore, un B150, poi basta. Va bene, sì, Radio 5 e Santiago 5. Sì, adesso se io lo stacco questo, sì. Allora, Santiago 3 si è sceso. No, adesso è attaccato. Aumenta parecchio la radio anche. L'ho detto che l'ho abbinato apposta per metterlo in macchina, ma io da capocaccia arrivo a Sassari benissimo, capito? Ma questo lavoro glielo devi fare anche lì a Giovanni, sennò è inutile che c'ha un 48 con 20 watt, non se ne vada in nulla. Che c'è un amplificatore come tiene un visia. Anzi, deve stare attento che brucia la radio l'amplificatore pure. Ma io glielo ho detto che non andava bene. Quell'amplificatore va bene sull'Elbex, capito? Va bene, vediamo un po' se è rientrato. Giovanni, ci sei? Sì, sono qua. Tanto ma non lo sento proprio, Gianfranco. Ma lì è in campagna, Sì, è in campagna. Cos'hai fatto adesso? È aumentato un pochino, vero? No, sono nuovamente in postazione fissa. Prima ero andato in vettura, ti avevo detto. Lo so, però la postazione fissa prima di 8, va su 9, quanti mai? Nuda, non ho giocato nulla. Comunque Giovanni, gli stavo dicendo a Franco di farti abbassare i watt in quella radio, perché almeno puoi sfruttare l'amplificatore che hai in macchina. Cioè, se quella radio dà 20 watt, è inutile che tu accendi l'amplificatore. Sta attento, luce, amplificatore e radio, non attaccare. Tu quella radio la devi portare a 3-4 watt, non di più, allora puoi usare l'amplificatore. No, cambio la radio, scusa, quella radio me la lascio così com'è, che poi la metterò sul camion, capito? Ah, ho capito, vabbè, lasciala così com'è, ma ricordati che con i watt, cioè con meno watt, la radio c'è sempre meglio. Sì, ho visto. Ieri l'ho attaccato con l'amplificatore della vettura, l'ho attaccato qua nella postazione fissa e uscivo molto molto meglio. È quello che ti devo dire, perché esci meglio? Perché giustamente la radio che stavi usando c'ha poche watt e quindi il lineare supporta l'ingresso, capito? Tutto qua. Avanti, Fra, lo senti a Giovanni? Santiago 1 che arrivi, no, e tu sei 9,5, 9,10, Massimiliano. No, non la ascolto, troppo basso. Basso, forse sono in zona negativa per lui. L'hai sentito, Giovanni? Oh, no, non lo sento proprio. Allora, lui ti sente, Santiago 1. Però ti sente bassissimo, capito? E io non c'ho niente, mi sto usando il Galaxy Saturn Echo fa. Bene, 9,95 modulati, quasi 9,10 qua. Ma lui l'ascolto un bel basso, capito? Un bel basso, non ho capito perché. Ma poi c'è la mia posizione, Rettile! Ehi, da niente, faccio entrare su. Sì, sicuramente la posizione tua però, non sua, perché lui adesso è a base fissa, capito? Tu sei anche in campagna, sì, magari sei negativo per zona sua, là. Avanti Daniele. Gappa, chi è? Franco è entrato. Eia. Ciao Franco, lì, ben sentito. Ciao Dani, ben ascoltato anche a te, arrivi benissimo qua, anche io arrivo lì a quelle zone tue. anche perché c'è una campagna, Daniel. Gli arrivi bene, tra 9-5, va bene, forte e chiaro qua. Ottimo per la truppa. Mi prendi Massi? Ehi, a positivo. Io stavo dicendo a Giovanni che ha provato quello della radio, però c'ha troppi watt là. Quindi no, il lineare non lo supporta. Va bene, va bene. Ciao, io al drone, quello lì sto andando, lo sto pilotando con 2-3 watt al massimo io. Non di più. Li ho calati tutti a quella potenza. Uscitevi da là, e altri vuoi entrare. Io già lo sai, con l'altro che c'ho entro con mezzo watt, infatti lo conto. E così devi entrare, è inutile entrarci con 20 watt che bruci tutto. No, non sarà. È già funge, perché se ne dai poco magari rischi che, come molti dicevano, cavolo, poi ti sta mangiando la radio. Aumentavo appena di watt e usciva perfetto. E allora, ma tu non c'hai anche quell'altro là, quello a 12? Sì, conferma, e anche quello è sempre lì parcheggiato, lo sai, a proposito, come l'hai ricordato. E lì sotto, qui a Reddo, e non lo sto facendo più andare. Ma quando c'ho il drone, quello è in cantina. E vabbè, anche quello lì è un buon pescatore, anche se a 12, però è... quello va bene. E si conferma, e si conferma. Gara, viene meda. E dobbiamo comprare un, come si chiama, un commutatore a 3 vie. Perché così no, userò uno che sta attaccato, anche a 4, perché c'è un 48 che resta attaccato, se anche a 3 va bene. E così vi faccio girare più frequentemente a tutti, capito? Scappa già, si conferma. Avanti, fra. Vedi, a questa è le definitive, così, già visto. Io avevo la bunker anche qua, Massimiliano, andavo sotto, perché volevo mettere un altro tipo d'antenna, e poi dopo non ho avuto tempo, non l'ho più piazzata, l'ho smontata, l'ho buttata in garage qua. Ehi, basta piazzarla, io già, no, io mi ho fatto un dipolo, fra, mi l'ho provato poco fa con Giovanni, Santiago Nove, dove abita lui a Rifo. È buono, dai, va bene, sì, alla grazie. Ehi, va bene. Santiago 8 in zona di Sassari, è perfetto, là. Va benissimo. KK. Vabbè, ma che tu tornato? Cosa avremo? Ah, boh, lo so, ma io adesso per il momento non mi interessa. Ho chiesto a quell'amico mio, ma detto mi va già sapere. Non c'è fatto più i figli. La gente la vuole gratis la roba, non è pubblico, ma si muore, insomma. Ehi, gratis la vuole, allora. Già rimane io, che non ti preoccupare. Va bene, va bene, avanti Giovanni. Un ascolto, cazzo, ma no, provavo a sentire a Franco, ma no, non lo sento proprio, no. Franco è in campagna, è per quello che non lo senti, capito? Lo so, sì, anche la posizione, cazzo, dentro un fosso è un casino. A Sassari andava bene, ma fai nobino, una volta facendo una prova, cazzo, io a Città Mercato neanche lì lo prendevo, eh. E a chi si è comparato la campagna è dentro un fosso. Sono andato lì a Monte Oro, che è in alto, a Monte Bianchino, a Monte Lizzo. Franco! Già, non era vera, no, quel cazzo, ma se mi piace, se no mi avevo mai pigliato in campagna, no. Ah, lo so, va bene, va bene. E quindi quella radio c'è anche l'eco, così è Giovanni? Sì, dovrebbe averne appena appena adesso, vero? No, guarda che c'è in macchina, quel 48. No, perlomeno no, non ne ha. E allora c'è il microfono che c'ha l'eco? Il microfono. Ah, pensavo che c'era che era un 48 con l'eco là. No, ce l'aveva il microfono. Quello ha soltanto il watt e... è un casino di canali, c'ha. Cos'è, un 48? Sì, un 48, eh. Ma è nuovo però, è un modello nuovo, eh. Cos'è, un 48 Plus? Sì, mi pare proprio quello, sì. Sì. C'ha una 240 canali come gli altri, no? Va bene, avanti, Danieluccio. Io fammi sentire questa radio con le calecca, là. Aspetta che adesso te le commuto, spengo... aspetta, se ho fischio, aspetta. Vai, a una a una, E questa ti piace la radio, Massimiliano? Dai, saluto a tutti, ciao Giovanni. Ciao Dario, ciao anche a te, Massimiliano. Fatti sentire, fatti vedere, ciao. Ciao Gianfranco, ci sentiamo, dai. Ciao Fra. E gli fatti vedere, e già mi faccio vedere, qualche giorno già ci troviamo, ci prendo il caffè là. Giova, ti saluta Franco che sta chiudendo, è casino. Sì, ho Natali, bella la radio. Guarda un po', Massimiliano, questa è l'87, liscio come l'olio, 3,5 watts, anzi no, 3 watt. Allora, qui fai da 7 a 9,5, il picco massimo. Kappa, kappa. Bene, veda, mi adesso ho passato un po' la radio perché stavo iniziando a fischiare qua. Comunque gira bene, sì. Sì, gira benissimo, alla grande. E guarda adesso che c'è il drone attaccato. Ma l'ha detto. Gira. 9 quasi 25, un pelino e 25. Già gira, già gira. Davvero, è vero, Tari. Aspetta, attacco il superstar. E attacca superstar. Giova, a te ben arriva Daniele, sì. Arriva, arriva. Chiedi se è il superstar del 2009, come quello che ho io. No, il superstar di Daniele è il 3009, però quello col frequenzimetro. 3009. Ho capito. Vabbè, in realtà. Oi. Non ti vai che tu segnali la manetta, cosa hai fatto? Ha detto che ti andrò a provare. Che cazzo è la manetta? Ma si è a minimo. Anche se non ci fossi oggi. Cazzo, se non vedessi qua, mio. Abbascia. Io non c'ho niente. Aspetta un attimo. Mi, ti lo posso vedere. Sì. E l'anno successivo foto nel 45. Durantarsi nel 46 nasce la prima figlia. Ecco. Adesso sì, mi. La radio anche. La radiozione dopo il 25. Guarda questa, Massimiliano. Questa mi piace di più del radio, Questa fa spingere di più il drone pure, Perché sei quasi a picchi di 30 qua. Questa è un'altra musica. Adesso lo spetta. Guarda, guarda. Questa come picco massimo fai da 7 a 9,15. Natalino oggi sta facendo sentire bene, dai. Vai Giovanni, riprendi. Aspetta, ti faccio sentire il superstar, quello omologato, Massimiliano. Vai, vai, vai tranquillo, già sono qua. Comunque, vabbè, si è rotto il bloccato il drone. Fatta, è Massimiliano. Ehi, vai Natalino. Questo è il Superstar 3009, quello omologato. Questo c'ha una bella radio, Natalino, c'ha veramente una bella radio. Questo è l'MB più 4. Sì, va bene, fai 995, però la radio è ottima. Mica c'è Giovanni anche da Pratamola. Già l'ho sentito poco fa. Hai inteso, ma non hai salutato, Barò Natalino. Giovanni, mi avete dato il tempo, se no ti avrei salutato, non c'è problema. Non so se mi ascolti che sto scendendo bassino con 4 watt. Ti ascolto, ma sei entrato prepotentemente. A gamba tesa sono entrato, perché mi ha detto che stavo scendendo forte, c'era al minimo. Dunque ti sei attrezzato anche tu. Ehi, cosa mi sono attrezzato? Questo è l'omologato. Perché c'ha... l'omologato questo, c'ha 4 watt. Senna ancora non l'hai messo, no? Ho sentito che sei pronto, però ancora non l'hai messa. Ancora non ho messo manco l'antenna. Quando metto l'antenna allora si sentono le matracche. È quella lì, non te la lasci, Natali. E cosa? Quella che c'hai adesso montata, non la lasci. No, che rotta, quando piove mi alzano le stazionarie a 2,5. Ecco, e allora sicuramente entra acqua là. Va bene. Daniele, beh, risolto? Ho fatto il drone, l'ho acceso tutta la sera, l'ho acceso. E stava funzionando, poi con questo blackout. Come blackout? Non gira più. Non si accende più il nome. Stacca la presa, la rimettatore, riattaccalo, non si sa mai. Eppure il fusibile è buono, ma si via, controlla adesso. Ehi, stacca quello a 24, staccalo dalla presa e riattaccalo. Se mai siano andati in protezione gli alimentatori. Magari gli è andato in protezione l'alimentatore. Beh, se l'ha attaccato tutta la sera, ha fatto un passaggio, si è trovato un drone. L'ho attaccato a Siria e... L'ho attaccato, non c'è alimentazione il drone. Strano. Adesso vediamo già, magari se come si vede un po' vediamo, perché non so se è partito il fusibile. Vabbè, muovi il cavi, magari c'è qualche falso contatto, boh, vedi un po' tu, lascio riposare, cosa mi gioco, non so cos'è combinato, cos'è di marcia alta? Come sempre, beh, pure il passeggio del primo te l'ho fatto con l'altro, l'87 ti ho fatto la prova col drone. E poi c'è andato in protezione sicuramente, non lo so, se no faccia bene, è una gallina là. Ah, aspetta però, 2009, di watt, come è messo? Che watt c'aveva quello? L'ho regolati tutti 2-3 watt, no, 2 watt era quello. Strano, e vabbè, si riprenderà. Se no, un pacchetto in Sicilia. E si fa un viaggetto. Ma sarebbe partito il fusibile, no Massimiliano? Non lo so, penso di sì. Io non so cosa è combinato. Guarda il fusibile dell'alimentatore, se si è partito quello dell'alimentatore non accende per quello. Aspetta, lo misura adesso. Ho mettato il tester qua vicino. Adesso lo sto ritardando a 24. Che alimentatore è? Ho 24 switching. E guarda, magari non sia partito il fusibile dell'alimentatore. E così se non accende per quello.